I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Via libera ieri della magistratura americana al maxi accordo per il risarcimento da 15 miliardi di dollari che Volkswagen pagherà negli Stati Uniti per lo scandalo dei motori diesel truccati. La decisione giunge a poco più di un anno dall'apertura del dossier che vedeva la casa tedesca accusata di utilizzare su alcuni modelli delle proprie vetture un software illegale che riduceva le emissioni inquinanti in condizioni di test, mentre durante la normale guida venivano ampiamente superati i limiti di legge. La decisione di ieri mette il sigillo all'intesa siglata da Volkswagen e dall'EPA, l'autorità di protezione ambientale, che prevede per i 475.000 americani proprietari di auto diesel truccati di ricevere un risarcimento complessivo di 10 miliardi di dollari. In più, la casa tedesca pagherà 2,7 miliardi di multa al governo americano e altri 2 miliardi saranno investiti per lo sviluppo di tecnologie ecologiche. Ovviamente ora tutti guardano all'Europa. La casa automobilistica ha proposto per i cittadini europei solo un richiamo dei veicoli coinvolti per motivi tecnici, ma non è un mistero che il piano di compensazione presentato dal gruppo tedesco non piaccia alla Commissione europea, che proprio domani incontrerà i vertici dell'azienda, ai quali chiederà per i proprietari europei un trattamento più solido, simile a quello riservato agli americani. Insomma, il conto finale per il Dieselgate di Volkswagen rischia di salire ancora. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il braccio di ferro fra Uber, il servizio alternativo ai taxi e il mondo dei tassisti italiani ha prodotto un risultato. Invece delle persone, Uber per il momento si limita, o almeno sta cercando di aumentare il proprio giro d'affari e di sostenerlo, viste le tensioni che ci sono in Italia, con il trasporto a domicilio del pranzo al ristorante. La tendenza non è nuova, già da tempo anche su internet si trovano application e società che fanno la consegna a domicilio dei migliori ristoranti di una città, ma in questo caso il fatto che lo faccia Uber fa certamente notizia, non tanto perché i tassisti non portino da mangiare a casa, quanto piuttosto perché dimostra che cosa? Che anche la crisi dei consumi, la crisi della ristorazione è un concetto relativo. Se si fanno idee innovative, se si hanno soprattutto delle soluzioni che possano consentire di saltare ostacoli di natura normativa o quantomeno regolatoria, e questo è il caso appunto dei rapporti fra tassisti e nuovi operatori del trasporto delle persone, beh insomma ben venga, soprattutto perché nel momento in cui si cerca lavoro, nel momento in cui si cercano di dare soluzioni occupazionali alternative a un mondo del lavoro che è sempre più stretto, soprattutto per le fasce deboli, beh certamente che sia un ristorante o che sia un taxi poco cambia. L'importante è che ci siano regole certe, sia per tutelare il mondo dei tassisti che hanno pagato licenze con la speranza di poter tenerle, di farne un valore, che poi in realtà scoprono che si tratta di semplici concessioni, ma soprattutto anche per quel mondo di operatori alternativi che con un po' di certezza di diritto potrebbero dividersi un mercato, trovare sbocchi occupazionali anche per i propri figli e soprattutto traghettare la propria vita al di fuori di questa crisi che sembra non finire mai. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.